Now we have tested almost 40 million people. By so doing, we show cases, 99% of which are totally harmless. Eccoci qua sulle parole di Donald Trump. Buongiorno Giulia. Benvenuta. A proposito di virus, grazie, buongiorno a tutti. A proposito di virus che è ancora pericoloso, Donald Trump ha ancora una volta fatto solo il numero dei tamponi, senza naturalmente dire che percentuale della popolazione sono, perché in quel caso il numero è enorme, certo, 40 milioni, ma gli americani sono più di 300 milioni. E poi ha detto che il 99% dei casi scoperti sono completamente harmless, cioè non hanno nessuna conseguenza negativa. E queste dichiarazioni sono rimbalzate naturalmente su tutti i giornali. La CNN ha intervistato l'FDA Commissioner, cioè il capo dell'FDA, che è il ministero che deve approvare ogni tipo di farmaco, e questo signore fa parte, si chiama Han, fa parte della task force, e a domanda, è vero che il 99% dei casi sono completamente come se asintomatici e non hanno alcun sintomo? È stato imbarazzante vederlo, chiunque può vedere il video, perché non poteva contraddire apertamente il presidente, quindi ha parlato d'altro, perché la verità è che certo, ora sì, ci sono alcuni farmaci in più, la quantità di persone in terapia intensiva diminuisce anche negli Stati Uniti, ma non è vero che il 99% delle persone che sono positive al virus non hanno sintomi. E quindi insomma questo tema, combinato col fatto che il Texas, che pensate da solo, lo sottolineano alcuni quotidiani, sarebbe la decima economia del mondo, sì. La California vale un pochino più dell'Italia, quindi per dare l'idea di che cosa vuol dire fermare uno stato così, perché una emergenza sanitaria si traduce, lo sappiamo, economica, il Texas continua a avere una crescita esponenziale di contagi ed è forse lo stato, proprio per le sue dimensioni, che preoccupa di più. Tra l'altro, sottolinea il New York Times, il CDC, il Center for Disease Control and Prevention, ha dato finalmente, perché erano molto attesi, delle statistiche sui gruppi etnici più colpiti, e si dimostra ancora una volta che sono in proporzione molto più alta le persone che si ammalano e muoiono di coronavirus di afroamericani o latinos, che sono numerosissimi in Texas, rispetto invece ai bianchi e agli asiatici, per le ragioni che abbiamo detto tante volte. Hanno situazioni di salute in generale più compromesse, diabete molto diffuso, sovrappeso molto diffuso, e poi soprattutto hanno pochissimo accesso alle cure, perché molti di loro non sono assicurati. Quindi situazione insomma ancora difficile negli Stati Uniti. Allora, giusto una precisazione a chi ci scrive che facciamo allarmismo, che parliamo solo di Covid, che in realtà non è una precisazione ma è una notizia: da domani a mezzanotte 6,6 milioni di australiani saranno isolate, cioè un nuovo lockdown per l'aumento dei casi di coronavirus a Melbourne, lo ha detto poco fa la CNN. Dobbiamo secondo me imparare ad accettare che la realtà è ambigua, cioè in Italia il virus sicuramente fa meno paura di prima e le conseguenze sono, dicono i medici, quasi del tutto inesistenti dal punto di vista clinico, ma è lo stesso virus che invece ha fatto molto male da noi e sta facendo male ancora all'estero, quindi bisogna farsene una ragione. La realtà è complicata, non c'è né un A né un B, secondo me, da sposare come bandiere. Giulia, che altro? Sì, tra l'altro, a proposito di questo, sui giornali israeliani naturalmente si parla del fatto che Netanyahu ha dichiarato lo stato di emergenza, perché quella che lui definisce già la seconda ondata è arrivata in Israele. Però, visto che ho sentito il punto di Alberto Orioli che parlava di tutte queste misure patchwork, ecco, nel Regno Unito, ne parlano tutti i giornali oggi, si procede invece, per quanto sia stata criticata e sia criticabile la gestione dell'emergenza da parte del governo Johnson, però si procede per grandi misure, grandi provvedimenti. Quello annunciato ieri riguarda lo stanziamento di 1,57 miliardi di sterline per aiutare tutta l'industria della cultura, soprattutto più che i musei nazionali, che comunque che hanno riaperto e che forse sono meno in pericolo di altre istituzioni, le gallerie, i teatri, soprattutto tutti quei luoghi che senza 4 mesi di di entrate da pubblico e che comunque per i prossimi mesi avranno molta meno disponibilità di vendere biglietti, rischiano di chiudere. E Boris Johnson ha proprio parlato della necessità di preservare la cultura del paese, che è anche questo, sono i teatri e tutta l'industria dell'intrattenimento. L'altra misura, altrettanto concreta, 1.000 sterline a tutte le aziende che si impegnano ad assumere dei giovani ai quali poi offrono un percorso di formazione. E anche questo, insomma, è naturalmente legato all'emergenza occupazionale, che, come sappiamo, più che in questi mesi, dove anche nel Regno Unito sono state messe delle pezze, emergerà in tutta la sua gravità dopo l'estate. Giulia, invece, per esempio in Spagna, anche qui c'è un ritorno al lockdown in Galizia perché ci sono nuovi casi. Che cosa hai trovato sui giornali? Ah, oltre appunto a queste notizie c'è anche una delle tante conseguenze. Io credo molti ascoltatori conoscono questa insegna, il Corte Inglés, che è una sorta di gigantesca rinascente perché ha tutti questi punti vendita in tante città della Spagna. È un department store di alto livello. Già durante il lockdown, ovviamente non avendo gli introiti dei negozi fisici, avevano spostato molto del business sulla parte del canale online. Hanno fatto un accordo con i sindacati per non licenziare troppe persone, anzi per non licenziare in questo momento nessuno, però, tutti, a tut, si, potranno spostare i dipendenti senza che possano protestare, quindi o da una città all'altra o da un settore all'altro, e soprattutto 5.000 verranno immediatamente spostati da personale dei negozi a personale che si occupa del canale online, perché questo è un po' sicuramente il lockdown ha dato impulso alle vendite su internet. Giulia, è vero che in Germania ci sono proteste per chiedere la fine dell'obbligo delle mascherine? Oh sì, tutti pensano che insomma a breve potrebbe anche arrivare un annuncio, focolai permettendo. E ieri ci sono state tantissime proteste, ci sono le foto di queste persone che hanno protestato in strada, nelle piazze, perché appunto questo obbligo di mascherine, tra l'altro anche in Germania è un'estate molto calda, oggi a Francoforte ci sono 30 gradi, ricorda la Frankfurter Allgemeine, e quindi appunto si spera che arrivi questa ulteriore misura di alleggerimento del lockdown, con tutte le Grazie. cautele però del distanziamento. Certo, grazie Giulia, ci Grazie a voi. risentiamo domani per la puntata di oggi. È tutto con Valeria Bernardi in regia, Danilo Itrani in assistenza, in diretta Jacopo De Franchi in redazione, da Alessio Maurizi. Ciao, buona giornata.